Le elezioni anticipate indette da Macron dopo il risultato delle europee stanno provocando, ma al contempo sono effetto di cambiamenti profondi all'interno della politica francese. Si ha un po' l'impressione di attraversare un momento di accelerazione, uno di quei momenti in cui, dopo che le cose sono rimaste stabili o comunque prevedibili per molto tempo, in un breve lasso di tempo cambiano rapidamente in maniera totalmente inaspettata e imprevedibile. Questo lo si può vedere sicuramente nei posizionamenti dei vari partiti per queste nuove elezioni parlamentari, ma le cause e al contempo gli effetti dei cambiamenti sono molto più profondi di quello che si può osservare in superficie, diciamo nella politica quotidiana dei vari partiti e dei vari schieramenti. Partiamo certamente dalla cronaca politico-elettorale. Ci sono diversi dati nuovi e interessanti rispetto alla Francia che abbiamo conosciuto. Innanzitutto, in pochi giorni le forze di sinistra, e ripeto di tutta la sinistra, dai socialisti ai verdi fino ai comunisti, a quelli di Mélenchon e anche a realtà normalmente molto più, diciamo, settarie come l'MPA, si sono messe insieme in pochi giorni con un programma comune e con candidature comuni. Questa è una forma di unità che non si trova da moltissimo tempo e non si è mai trovata così larga. Anche nel nome riprende il Fronte Popolare, quello storico del 1936, che fu il risultato di decenni di lotta e che portò per la prima volta a conquiste concrete per i lavoratori francesi, le 40 ore, le ferie pagate e tante altre, cose di cui beneficiamo ancora oggi. Però non c'è solo questa novità. Se guardiamo il panorama politico francese, ci sono due dati, se seguiamo, diciamo, l'arco da sinistra a destra della politica francese, che stupiscono. Innanzitutto, se guardiamo alcune proiezioni elettorali, c'è la scomparsa del centro liberale, cioè del partito di Macron. Per quanto io sia un po' scettico su queste proiezioni, alcune danno Macron a 20 seggi. Questo perché, anche se lui dispone di un 18-20% a livello nazionale, con il sistema a doppio turno maggioritario francese, se questo consenso elettorale non è concentrato geograficamente, effettivamente si possono avere risultati molto magri. Ma lo stesso discorso vale per la destra, tra virgolette, diciamo repubblicana, la destra di Sarkozy, di Chirac e così via. Anche loro sono in un momento di estrema difficoltà e si può pensare che siano sulla strada della scomparsa. Come avete letto nei giornali italiani, c'è una grossa lacerazione interna tra il presidente Ciotti, che è stato eletto dagli iscritti e che quindi dispone di una legittimazione molto forte rispetto agli altri organismi del partito, che sta spingendo al di fuori della tradizione gollista francese per un'alleanza con il Rassemblement National. La divisione tra De Gaulle e Le Pen è sempre stata fortissima. Nella resistenza Le Pen stava con i tedeschi, De Gaulle ha fatto la resistenza. Sull'Algeria, De Gaulle ha dato la libertà all'Algeria francese, Le Pen torturava gli algerini. La tradizione di questi due partiti li porta a restare lontani, ciò nonostante il presidente ha deciso di portare il proprio partito a fare delle alleanze nei collegi con la Le Pen. Questo ha provocato una divisione interna di cui non si conoscono effettivamente ancora i risultati, nel senso che il Bureau Nazionale ha dimesso il presidente, il quale però ritiene di essere ancora in carica, e il risultato è che ci saranno almeno 70, tra i 60 e 70 deputati da lui nominati che non riceveranno la concorrenza del Rassemblement National, una sorta di desistenza come quella tra Rifondazione Prodi nel 96, per cui c'è un'alleanza di fatto. Una parte forte dei repubblicani sarà così rieletta al di fuori, non legittimati dal proprio partito e in accordo con il Rassemblement National. Questo potrebbe, dati i risultati previsti del Rassemblement National, che viene dato sui 200 seggi, diciamo per prendere quelli un po' più probabili, molto, molto, molto vicino alla possibilità di governare il paese, di avere una maggioranza in Parlamento. Da questo punto di vista c'è una concorrenza a destra fatta dal partito di Zemmour, col quale il Rassemblement National non ha voluto fare un accordo, che potrebbe portare via voti, soprattutto in alcuni collegi, e spingere candidati all'Assemblea Nazionale al di fuori del ballottaggio, anche se si tratta di casi molto isolati. Però quando si tratta di avere una maggioranza in Parlamento, anche alcuni seggi persi potrebbero compromettere il risultato che Bardella vorrebbe ottenere. In tutto questo, ovviamente, non tutto è lineare. Ci sono alcuni candidati, soprattutto di Mélenchon, che non hanno ricevuto l'investitura e che in disaccordo col proprio partito hanno voluto presentarsi contro il Front Populaire, contro il Fronte Popolare, e quindi la situazione è sicuramente in movimento. Ma l'impressione è più generale, e cioè che il sistema politico francese, la cosiddetta Quinta Repubblica, la Costituzione scritta da De Gaulle nel 58, sia ormai arrivata a un passaggio storico e probabilmente sarà sorpassata non solo perché se vince Bardella ha promesso una riforma costituzionale, ma anche perché effettivamente questi risultati elettorali e la prossima configurazione del Parlamento, con l'inclusione di una forza che, detta in termini italiani, era al di fuori dell'arco costituzionale, avrà sicuramente effetti avversivi, tra virgolette, su tutto il sistema politico francese. In un certo senso stiamo passando da una repubblica all'altra, come avvenne nel 92-94 col passaggio dalla prima alla seconda repubblica in Italia, e con gli effetti che tutti abbiamo visto sulla Costituzione italiana e sul sistema politico italiano. Vedremo che cosa avverrà nei prossimi giorni, ma molto probabilmente nelle prossime 2 o 3 settimane, quando i giochi elettorali saranno chiusi, troveremo una Francia diversa non solo dal punto di vista politico, ma più profondamente da un punto di vista sociale, costituzionale e di visione, diciamo, politica più generale del paese e di come questo deve funzionare, di quali interessi deve rappresentare e di chi deve rappresentare questi interessi.